in primo piano. Buongiorno, buon primo lunedì dell'anno da Giulia Crivelli. Eccoci con la nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani ancora fino a mercoledì, poi dal 7 torna Alessandro Milan. E cominciamo dal Sole 24 Ore. Alcuni dei temi li avete sentiti già nel GR. C'è la settima puntata, il sesto inserto, dedicato alla guida pratica alla manovra, la legge di stabilità, il grande budget per il nostro paese per il 2016. La puntata di oggi è dedicata ai professionisti, con tutte le novità appunto che li riguardano. E trovate tutto a pagina 18 e 19, anche se il titolo principale in realtà riguarda un'altra importante novità, perché appunto primo lunedì utile dell'anno è come se fosse un po' il primo giorno dell'anno, e quindi da oggi entrano in vigore le nuove regole del Jobs Act, la grande riforma del lavoro varata nel 2015 dal governo Renzi, che vietano l'utilizzo di quelli che venivano chiamati co-co-co se l'attività è organizzata dal committente. Allora, per 500.000 collaboratori il bivio dei nuovi requisiti. Tutti i dettagli li trovate a pagina 3. E poi vi segnalo l'editoriale di Mauro Meazza, che si intitola 20 anni dopo, che riguarda il famoso 10% entrato in vigore 10 anni fa, tant'è che appunto il titolo dell'editoriale è Le promesse tradite del 10% della gestione separata della previdenza. È appunto un bilancio, se vogliamo, un po' triste di quello che avrebbe potuto cambiare in 20 anni, ma che di fatto non è cambiato. Vi leggo la prima parte, poi trovate il resto a pagina 3. Giusto 20 anni fa, nel gennaio del 1996, debuttava formalmente la gestione separata INPS, formalmente però, perché le polemiche, le correzioni e i ricorsi giudiziari consentirono il via libera operativo soltanto tra aprile e giugno di quell'anno. Solo allora prese finalmente corpo, con i primi versamenti fissati all'aliquota del 10%, quel che era stato scritto nell'agosto precedente, nella riforma delle pensioni varata dal governo di tecnici guidato da Lamberto Dini. E siccome appunto di riforma delle pensioni sicuramente torneremo a parlare, perché la più vituperata in un certo senso è quella di Elsa Fornero, del governo Monti, ma avete sentito anche durante gli ultimi mesi dell'anno il presidente dell'INPS Tito Boeri parlare di come è difficile rendere sostenibile il nostro sistema pensionistico. E allora, per esempio, quello della gestione separata torna un tema di grande attualità. Vi segnalo con il Sole 24 Ore del lunedì anche il consueto inserto L'Esperto Risponde, dove appunto i nostri esperti rispondono ai quesiti più diversi dei lettori. La copertina è dedicata alla casa e abbiamo sentito anche come sono state introdotte per contrastare lo smog nelle città alcune regole, alcuni tetti al massimo del riscaldamento, ma questi tetti potrebbero anche riguardare le temperature poi per quando invece toccherà rinfrescare le nostre case. E allora appunto il titolo dell'Esperto Risponde è Caldo e fresco, libretto d'obbligo per tutti gli impianti. Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, che ha un titolo diverso. Dario Di Vico racconta nei dettagli questo dossier del Ministero nostro sulla crescita lenta, lontani dai livelli del 2008, ripresa selettiva. Questo famigerato 2008 l'hanno indicato come l'inizio della crisi, l'anno in cui, lo ricorderete, in settembre ci fu il crack di Lehman Brothers, la banca d'affari negli Stati Uniti, e che segnò un po' fu il simbolo dell'inizio di questa lunghissima crisi economico-finanziaria che dagli Stati Uniti coinvolse poi il mondo. Vi segnalo anche un articolo di Sergio Rizzo, un po' da mani sul volante, a proposito di Alessandro Milan, che spiega come, a proposito di riscossione del fisco, nei giorni scorsi abbiamo parlato molto dei nuovi successi dell'Agenzia delle Entrate, la lotta all'evasione resti una priorità. Ecco, Sergio Rizzo ha spiegato che per riscuotere le tasse la Sicilia ha un'agenzia che lo fa in perdita. Vi leggo la prima parte e poi trovate l'articolo a pagina 24. Sappiamo quanto la storia delle esattorie siciliane sia travagliata, ma non è affatto normale che la società incaricata di riscuotere le tasse chiuda i conti perennemente in perdita e che poi tocchi ai contribuenti mettere mano al portafoglio. È veramente una specie di paradosso che viene dalla Sicilia ancora una volta. Vi segnalo in realtà poi il titolo principale del Corriere della Sera, che è l'Arabia rompe con Teheran. L'avete sentito anche nei GR, naturalmente, questo scontro in corso tra l'Arabia Saudita e l'Iran, che è seguito alle 47 esecuzioni di 2 giorni fa, tra cui quella più eccellente dell'imam al-Nimr. La fotonotizia però è stata scattata la foto che diventa la fotonotizia è stata scattata a Milano ieri, perché ieri è stata la prima domenica dell'anno del 2016 gratuita di Ai Musei, questa iniziativa voluta dal ministro della cultura Franceschini. E nonostante il freddo, perché comunque a Milano è stata una giornata insolitamente fredda per come eravamo abituati negli ultimi 2 mesi, ci sono state code lunghissime per 2 delle mostre più famose, più importanti di questo momento a Milano, in particolare per quella di Francesco Hayez, Il successo dell'arte quando è gratuita, l'articolo di Pierluigi Panza. La Repubblica ha una fotonotizia dedicata alle relazioni, se vogliamo, alla lotta al terrorismo e comunque a questo nuovo scontro tra Arabia Saudita e Teheran. Ieri l'avrete sentito sia nei telegiornali che poi nei GR, c'è stato l'ennesimo video terrificante di esecuzioni da parte dell'ISIS, e allora il titolo che racconta tutti questi fatti legati al terrorismo e alle guerre di religione di ieri: l'Iran accusa sauditi come il califfo, e c'è questo video dell'Islamic State con un nuovo Jihadi John, cioè Jihadi John era per Jihadi John è il terrorista islamico che era in realtà di origini britanniche, e ce ne sarebbe un altro con un profilo molto simile a quello di Jihadi John. L'analisi è di Federico Rampini: l'incendio brucia la tela di Obama, che tutto sommato è abbastanza simile all'analisi di cui abbiamo letto una parte ieri di Alberto Negri, appunto sul fatto che questo scontro tra Arabia Saudita, storico alleato degli Stati Uniti nell'area, e Iran metta alla prova quella che appunto Rampini definisce la tela di Obama. Perché? Perché uno dei successi della seconda amministrazione Obama è l'accordo sul nucleare con Teheran, quindi l'arcinemico che non è più nemico, così tanto nemico da qualche mese. Un altro titolo forte su Repubblica riguarda le aziende statali, perché appunto un'altra novità di questo 2016 è la riforma delle aziende statali. Ecco, allora, azzerati i CDA, Valentina Conte ripercorre tutte le novità. E poi a Roberto Saviano, che sembra avere veramente il monopolio di tutte le questioni di legalità, a torto o a ragione, di Roberto Saviano è l'articolo che riguarda, ma lo vedremo anche su tanti altri giornali, è una storia incredibilmente triste. Ed è quella di un sindaco messicano, una giovane donna di 31 anni, Gisela Mota, che aveva vinto appunto le elezioni a sindaco, quindi un'elezione amministrativa, facendo forte di un programma contro i narcotrafficanti, è riuscita a restare in carica per un giorno perché proprio i narcotrafficanti l'hanno uccisa all'interno della sua casa. Il Messaggero ha un titolo ancora diverso, che parte da un'inchiesta del giornale, ed è un'inchiesta sulle violazioni che i vari paesi dell'Unione Europea compiono alle regole dell'Unione Europea stessa. E si scopre: violazioni Unione Europea, sorpresa a Berlino. Nella classifica degli sforamenti la Germania è come l'Italia, però Bruxelles, guarda un po', è meno severa con la Germania. L'articolo poi lo trovate con appunto tutta questa analisi a pagina 5 ed è di Marco Fortis. Una fotonotizia ancora diversa per il Messaggero, perché ricorderete qualche mese fa il referendum in Catalogna, dove gli elettori si erano espressi per sostanzialmente l'indipendenza, e però questa secessione, spiega il Messaggero, è rinviata. Paola Del Vecchio spiega: la Spagna verso nuove elezioni. Tra l'altro, appunto, la Spagna verso nuove elezioni non tanto sulla questione dell'indipendenza della Catalogna, ma sul fatto che dopo le ultime elezioni politiche, come sappiamo, non più caratterizzate da un bipartitismo, ma da importanti successi di 4 partiti, il principale di centrodestra, il principale di centrosinistra e poi Podemos, che spesso viene affiancato al nostro Movimento 5 Stelle, e Ciudadanos, che invece è più di centro, comunque 2 grandi novità nella politica spagnola. Non si è riusciti, nessuno ha trovato il modo per formare una maggioranza di governo, e quindi molto probabilmente si andrà a nuove elezioni. La stampa ha un titolo ancora diverso, perché Matteo Renzi ha concesso l'ennesima intervista a fiume a un quotidiano, questa volta appunto è La Stampa. Il titolo dell'intervista: Italia basta cappello in mano, dall'Unione Europea non vogliamo diktat, c'è chi vuol far fallire l'Ilva, questo è tra l'altro uno degli argomenti dell'intervista, la grande acciaieria di Taranto sul cui futuro ancora ci sono moltissime incertezze, e noi, risponde, dice Renzi, non accetteremo questa volontà di far fallire l'Ilva, che in qualche modo però deve avere un piano molto serio, perché non basta farla ripartire, dato che è un'azienda di fatto fallita, ma bisogna anche riconvertirla, perché con le nuove regole ambientali l'impianto non potrebbe funzionare così come era stato concepito. Ma la fotonotizia, diciamo, e titolo centrale della stampa riguarda anche in questo caso i venti di guerra tra Arabia e Iran. E la fotonotizia in realtà sono foto di due bambini. Da una parte il primo addestrato, molto giovane, molto piccolo, veramente un bambino, dall'ISIS, che in questo video minaccia gli infedeli, e l'altro invece un bambino siriano di 2 anni che è sbarcato in una bara dopo il naufragio del barcone di immigrati su cui viaggiava nel mare Egeo. E il commento è di Massimo Gramellini: un orrore piccolo piccolo. Il secolo XIX ha la stessa, una delle due foto della stampa la sceglie anche il secolo XIX per la sua copertina, è quella del bambino arruolato dal boia dell'ISIS, non so bene giudicare quanti anni possa avere, ma probabilmente 3 o 4, non di più. L'erede di Jihad John, l'abbiamo visto anche sulla prima pagina della Repubblica, invece questo jihadista appunto di origini occidentali uccide 5 prigionieri in questo nuovo video, e minaccia di nuovo la Gran Bretagna. Ma vi segnalo la prima pagina del secolo XIX perché qualche giorno fa, sapete che all'aeroporto di Genova sono stati arrestati 2 presunti terroristi, o comunque 2 persone sospettate di avere legami con i terroristi, e questo dà lo spunto al secolo XIX per spiegare come siano oggi anche gli aeroporti minori, come per esempio quello di Genova, una possibile via di entrata dove si pensa ci siano meno controlli per appunto i terroristi. Iran Genova, missione segreta, terrorismo da Teheran via Berlino, la rete che ha aiutato i 2 arrestati. Il giornale ha un'apertura molto economica: come salvare i nostri soldi nel 2016, con alcune statistiche, alcuni dei dati resi noti ieri da Eurostat, che ha confermato purtroppo che l'Italia è ancora stenta ad agganciare la ripresa rispetto ad altri paesi europei. E poi vi segnalo una notizia raccontata da Paolo Guzzanti, che il titolo è un po' fuorviante: la Gran Bretagna vara la legge contro Blair, lo scroccone. Non so che cosa spinga Paolo Guzzanti ad avere così tanto risentimento per l'ex premier Tony Blair. In ogni caso, la notizia è che le ambasciate non potranno più essere usate quando gli ex premier come Tony Blair sono in viaggio e quindi hanno bisogno di, tra virgolette, un albergo. Ci lasciamo un attimo per la pausa, ci ritroviamo con le altre prime pagine dei giornali subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali, ci mancano quella di Libero, che torna sulla questione della RAI. L'avete sentita di sicuro, era impossibile non sentirne parlare, o comunque chi si era sintonizzato sulla RAI nella notte di Capodanno ha notato che su RAI 1 l'inizio dell'anno è stato dato con un minuto di anticipo, e poi quell'SMS con la bestemmia che è diventato l'SMS della discordia. E allora il titolo di Libero: il carrozzone RAI di Renzi, la bestemmia di Capodanno e il conto alla rovescia sbagliato sono solo il pretesto per accelerare l'occupazione, secondo Libero, della TV pubblica. Gridano al complotto, ma l'incidente è provvidenziale, in nome dei piazzati e di chi lo sarà. E a proposito di RAI, vi segnalo un'intervista richiamata in copertina da Libero a Bianca Berlinguer, direttrice del TG3. La trovate poi all'interno, a pagina 7, ne ha un po' per tutti. Bianca Berlinguer non smentisce la sua fama di, diciamo, antipatica di successo, potremmo dire così. Ricorderete, forse qualche settimana fa abbiamo anche segnalato il commento al suo battibecco con una scrittrice durante una trasmissione, perché dopo aver parlato di guerra la scrittrice si è rifiutata di passare a temi più leggeri, cioè la trama del suo romanzo, che nulla aveva a che fare con la guerra, e Bianca Berlinguer l'ha zittita in modo affatto simpatico, potremmo dire così. In ogni caso, qui il titolo scelto da Libero è: io, Bianca Berlinguer, difendo Minzolini. Minzolini, che sapete, è stato condannato per aver Per essere stato giudicato, è stato giudicato colpevole di aver demansionato una sua giornalista quando era direttore del TG1. Poi ci sono anche le condanne per uso della carta di credito, ma quello è un altro, è della carta di credito aziendale della RAI, ma quella è ancora un'altra vicenda processuale. L'unità, diritto alla normalità, qui il tema è quello delle unioni civili, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il 26 gennaio arriva in aula questo progetto di legge sulle unioni civili e secondo l'unità ecco perché può passare con largo consenso. L'Italia è un caso tra i paesi avanzati e moderni per i diritti negati a coppie dello stesso sesso. Su questo tema si sono espressi molti ieri, persino il candidato alle primarie del centrosinistra per il sì per la candidatura a sindaco di Milano, Sala, ha detto che è disposto a votare con il movimento, sarebbe disposto a votare con il Movimento 5 Stelle su questa legge. Anche altri esponenti del PD hanno detto la stessa cosa. Vedremo un po' che cosa succederà. La fotonotizia però in questo caso è dedicata a Gisela Mota Ocampo, dicevamo questa giovane politica messicana, aveva soltanto 33 anni, era stata eletta sindaco per il Partito Democratico della Rivoluzione, un partito di sinistra. Il primo di gennaio aveva giurato, si era insediata come sindaco e sabato un gruppo di uomini, quasi sicuramente mandati dai narcos contro cui si era sempre battuta, l'ha uccisa. Sapete che in me anche se non se ne parla pochissimo, è di fatto in atto da moltissimi anni una guerra civile dove da una parte appunto ci sono i narcos e dall'altra ci sono i cittadini normali, una parte della politica e poi un'altra sicuramente è invece collusa con i narcos stessi. E il Fatto Quotidiano, titolo, perché il Fatto Quotidiano chiama spesso le riforme le schiforme, e allora ecco il titolo: schiforme col fronte del nord, nascono oggi questi comitati perché vogliono in qualche modo, da una parte c'è chi vuole spiegare le riforme della Costituzione, su cui verrà fatto anche un referendum sulla riforma costituzionale. E poi naturalmente ci sono tutti gli oppositori. La storia di copertina, che poi trovate alle pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano, è però dedicata ai cosiddetti Volta Gabbana, cioè i parlamentari che, eletti con un partito, hanno poi cambiato partito o gruppo parlamentare. Nel 2015 c'è stato un record. Nel Parlamento dei nominati, eletti con il Porcellum è, sapete, l'attuale la legge con cui abbiamo votato le ultime politiche, che però è stata dichiarata poi incostituzionale, ci sono già stati 325 cambi di casacca in poco più di 30 mesi, 246 i politici coinvolti. Al 31 dicembre il record, 55 casi di trasformismo. La Gazzetta dello Sport prende in prestito anche lei il titolo del film di Checco Zalone, di cui abbiamo parlato anche ieri, mercato Quo Vado, sempre in attesa delle prime partite del 2016 della Serie A e anche di quelle della Serie B. Si parla sempre di calciomercato, e la Gazzetta naturalmente riassume tutte le trattative in corso, presunte o reali. A proposito di Quo Vado, segnalo che dopo il primo giorno 7 milioni di incassi, record, stesso record per il secondo giorno. Tant'è che anche oggi sui giornali ci sono tanti commenti su Checco Zalone, e anche sul Foglio, il Foglio del lunedì, che raccoglie il meglio del, secondo il direttore del Foglio Claudio Cerasa e il suo fondatore Giuliano Ferrara, il meglio di quello che è apparso sui quotidiani settimanali della settimana precedente, e la copertina è proprio provando a spiegare il fenomeno Zalone, ed è un collage di tutti i commenti che sono stati fatti per spiegare questo successo incredibile del comico e del suo ultimo film Quo Vado. L'editoriale di Claudio Cerasa è però dedicata alla questione della bestemmia su Rai 1, che secondo Cerasa immortala la fuffa della democrazia sognata da Zagrebelsky e Casaleggio. Zagrebelsky un costituzionalista, Casaleggio lo sappiamo uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle. E invece alle tasse è dedicato invece il consueto editoriale del lunedì sul Foglio del fondatore Giuliano Ferrara: noi e le tasse, secondo il grande scrittore dell'Ottocento Alexandre Dumas. Ma passiamo alle pagine interne dei giornali, torniamo un attimo sul Sole 24 Ore, Perché c'è la questione di cui si è parlato anche nei giorni scorsi, su cui in tanti risparmiatori attendono ancora delle risposte chiare, quella dei risarcimenti. E allora, a proposito di legge di stabilità e di norme sul risparmio, a pagina 7 del Sole, Bianca Lucia Mazzei e Ranieri Razzante ci spiegano: banche, tappe forzate per i risarcimenti. Entro il 30 marzo ci dovranno essere i decreti attuativi che devono definire le procedure e l'ammontare delle prestazioni, quindi non parliamo naturalmente soltanto dei casi più recenti di Banca Etruria, ma tutti quei casi in cui sappiamo chi ha dei depositi inferiori ai 100.000 euro appunto potrebbe avere diritto a dei risarcimenti. Vi segnalo due articoli a proposito di fact-checking, di utilizzo dei numeri per poi essere più precisi nel raccontare i fatti di cronaca. Un altro articolo, anche questo firmato da Bianca Lucia Mazzei, riguarda la sanità, ma non tanto la questione dei parti, su cui sapete c'è stato un altro caso ancora di donna incinta all'ottavo mese che è morta insieme alla bambina che aspettava. Aspettiamo a questo punto l'esito delle indagini degli ispettori mandati dal Ministro della Sanità Lorenzin. In questo caso invece riguarda la fecondazione e appunto in questo articolo che trovate a pagina 14 che si intitola Il federalismo della fecondazione, si capisce come ogni regione italiana abbia regole diverse, questo perché con la ultima riforma costituzionale la competenza appunto sulla sanità è passata alle regioni, da qui anche un sacco di problemi che riguardano gli sprechi, ma questo è ancora un altro discorso. E in questo articolo si spiega come nel sud, per esempio, i costi siano a carico delle coppie. Ci sono due, tra l'altro un'infografica che spiega come la differenza di diffusione e di applicazione tra i centri pubblici convenzionati e i centri privati che si occupano di fecondazione. L'approfondimento sul tema che avete sentito nella controcopertina di Giacomo Bagnasco sugli stranieri nello sport l'ho trovata a pagina 15, lo straniero non fa bene al medagliere. E poi, come vi avevo detto all'inizio, la sesta puntata dell'approfondimento sulla legge di stabilità che ci riguarda tutti, l'approfondimento di oggi però si rivolge soprattutto ai professionisti. Spinta al regime forfettario, l'imposta unica scende al 5%, quindi redditi e ricavi incrementati, si allarga la platea dei beneficiari. Tutti i dettagli, magari chi appunto non è un professionista trova questo magari un po' ostico questo linguaggio, ma che invece appunto per i professionisti tutti gli approfondimenti sui fondi europei, gli sconti sull'IRAP, i pagamenti elettronici, la responsabilità e le sanzioni, i contributi previdenziali e le misure di sostegno, alle pagine 18 e 19 del Sole di oggi. Torniamo sul Corriere della Sera, due fatti di cronaca che riguardano in qualche modo la rete. Sappiamo come la rete internet e tutti poi i social network e tutto quello che riguarda l'uso di internet in generale internet è uno strumento, quindi spesso dipende da come lo si usa, sarebbe neutro in sé per sé. E allora questi due articoli che non a caso sono affiancati, una pagina 10 e una pagina non sono proprio affiancati ma vicini, una pagina 10 e una pagina 16 del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera con Giovanna Cavalli è l'unico che è andato a parlare con l'autore del famigerato SMS con bestemmia passato sugli schermi di Rai 1. Si chiama Vito Zingarelli, ha 21 anni, è di Taranto e ha mandato questo SMS con la bestemmia. E ha raccontato a Giovanna Cavalli: io e quel messaggio che imbarazza la Rai ero teso per il cane. Questa è la sua giustificazione. È uno studente e dice, ammette, è stata una cretinata quel SMS, però i botti spaventavano il mio cane che si chiama Cico. E così ci racconta questo. E dicevo, a proposito di internet, un altro caso che fa molto discutere, trovate la notizia su tantissimi giornali, è quello di Ilaria Cucchi, che ha messo sul suo profilo Facebook la foto del carabiniere che, sapete, secondo la moglie in un'intercettazione aveva proprio detto senza mezzi termini: così abbiamo ucciso di botte Stefano Cucchi. Ilaria Cucchi è quella foto sul web che sa di gogna, perché appunto lei ha messo questa foto sul web e adesso fa molto discutere questa ennesima mossa di, della sorella di Stefano Cucchi, per sicuramente, io credo che lei il suo scopo sia veramente fare giustizia, capire quali sono le responsabilità. Alcuni avanzano dei dubbi sul fatto che questo sia il modo per arrivare appunto alla verità e alla giusta punizione dei colpevoli. Sempre dalle pagine interne del Corriere della Sera, abbiamo detto della questione delle morti di parto, che purtroppo in questi giorni si sono concentrate e hanno come a volte le statistiche appunto fanno questo effetto, cioè se anche solo per una questione casuale queste morti si concentrano in pochi giorni, sembrano un'emergenza incredibile, mentre pensate, i dati dicono che in Italia sono stimati circa 50 casi all'anno. Metà però sarebbero prevenibili, secondo quello che ci racconta Margherita De Bac, che è una delle giornaliste che più si occupa di temi di sanità e di salute al Corriere della Sera. La colpa è quella di diagnosi errate durante la gravidanza, emorragie maltrattate nelle ore critiche vicino al magari quando si avvicina al momento del parto, e poi di ospedali non attrezzati. E ci sono 8 domande e risposte che appunto dovrebbero spiegarci perché si muore di parto. Sulla Repubblica un approfondimento, un po' un retroscena di Carmelo Lo Papa, che è un specialista in questo, un cronista politico della Repubblica. Il titolo è Forza Italia, conclave dei big senza Berlusconi. Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità di togliere proprio il nome o addirittura il simbolo Forza Italia dalle prossime elezioni amministrative. Per esempio, appunto, e questo lo ripete Carmelo Lo Papa, l'ipotesi del simbolo congelato nelle città innesca la sindrome di soluzione. Brunetta, sapete, capogruppo alla Camera di Forza Italia, e Romani preparano un incontro per rianimare il partito. Matteoli, altro nome storico di Forza Italia, sparire dalle liste significa farsi annettere da Salvini e sarebbe grave. Quindi su questa questione del togliere il nome o togliere il simbolo si discute molto all'interno di Forza Italia. Sulla questione di un altro conflitto purtroppo sempre aperto, che è quello tra israeliani e palestinesi, sappiamo di 3 giorni fa l'attentato a Tel Aviv con 2 morti e parecchi feriti. Ora la Repubblica ci dà invece conto del fatto che Israele ha già incriminato gli estremisti ebrei, i 2 giovani accusati del rogo in cui morì una famiglia palestinese 5 mesi fa. Fanno parte di un'organizzazione clandestina e a Israele ha anche avviato un'altra inchiesta su altri 3 ultra-ortodossi, ebrei ortodossi. E poi c'è un'intervista a Edgar Keret, uno scrittore che ha pubblicato anche in Italia di recente un libro che si chiama 7 anni di felicità. Mi ricordo anche una sua intervista proprio alla nostra Alessandra Tedesco, al cacciatore di libri, che ci racconta così spiego a mio figlio, che ha solo 10 anni, come la guerra è arrivata anche qui a Tel Aviv, perché abbiamo detto dell'attentato a Tel Aviv si era molto più abituati tragicamente abituati a fatti di sangue, a attentati a Gerusalemme, molto meno a Tel Aviv. Quindi questo ultimo attentato del giorno prima di Capodanno è sembrato ancora più così, ha scosso ancora di più forse la società israeliana. Ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico e ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna stampa. In primo piano. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali, torniamo sul Messaggero, che ha un approfondimento su una delle riforme che dovrebbe, condizionale ed obbligo, perché bisogna veramente aspettare la prova dei fatti in questi casi in Italia, una delle riforme che dovrebbe entrare in vigore col nuovo anno, ed è quella sulle partecipate. Vendite e chiusure, arriva la scure su 8.000 società. Questa riforma, che dovrebbe essere varata proprio ufficialmente dal primo Consiglio dei Ministri utili, che cancellerà almeno 10.000 persone, e poi spiega il Messaggero, entro 6 mesi verrà effettuata una ricognizione delle controllate e poi ci sarà ancora un anno per le cessioni. Vi dicevo, il tema delle unioni civili Ecco un altro esponente del PD che si dice pronto a un accordo con il Movimento 5 Stelle su questo tema, è Lorenzo Guerini, vice segretario del Partito Democratico, Unioni Civili, pronti al voto con il Movimento 5 Stelle e persino Forza Italia se saranno disponibili. Poi vi dicevo che anche Sala, che peraltro non è un parlamentare, quindi non sarà chiamato a dare il suo voto su questo tema, è solo, tra virgolette, candidato per ora alle primarie per diventare il candidato sindaco del centrosinistra a Milano. E Sala ieri, tra le tante cose che ogni tanto dice che esterna in questi giorni, è sono di sinistra, sia le nozze gay, Sel sfida i Dem, siamo in concorrenza. Quello che Messaggero definisce Mister Expo, perché naturalmente sapete che Sala è stato il commissario straordinario dell'Expo, e ieri in questa intervista a Sky TG24 a Maria Latella ha anche detto rifiuto la definizione di candidato dei salotti famosi, famigerati, ma io non saprei neanche definirli salotti milanesi. Dalla stampa un ricordo della strage di Charlie Hebdo, è già passato un anno, erano le 11 del 7 gennaio del 2015 quando appunto i terroristi entrarono nella redazione del settimanale satirico francese a Parigi e fecero una strage. Un anno dopo Charlie Hebdo, Kalashnikov, soldi, legami e mandanti, ecco le domande ancora senza risposta, pagina 5 della stampa, che torna anche sul tema degli aeroporti minori italiani, ma non solo naturalmente, come possibile ingresso, diciamo, facilitato ai terroristi, a pagina 9. Gli aeroporti minori sono la nuova rotta dei flussi illegali, già 3 i casi di sospetti fermati in Italia in cerca di passaggi sicuri. E poi un altro tema che non è nuovo anche in questo caso, però credo sia proprio utile a volte aggiornare su questi temi, ed è quello della presenza della Cina in Africa. L'Africa è stata di fatto colonizzata, soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture, dagli investitori cinesi. E in questo caso Lorenzo Simoncelli da Pretoria, quindi da un osservatorio del Sudafrica, ci racconta: in Africa porti e ferrovie ormai parlano cinese. Dai Italia alle infrastrutture, Pechino continua a investire, boom di lavoratori in Africa dall'Oriente, e scatta già tante forme di intolleranza. Poi un articolo molto curioso, abbiamo parlato di Expo, secondo Alberto Matteoli, gli italiani hanno imparato a fare la coda. Beh, chi è stato a Expo sicuramente ha visto delle code molto disciplinate, molto lunghe, di persone molto pazienti che hanno atteso ore e ore e ore il loro turno per entrare nei vari padiglioni. Noi italiani eravamo famosi, a proposito di Checco Zalone, nel suo film c'è anche una scena in cui viene presa in giro questa incapacità italiana, presunta direi a questo punto, di fare la coda. Ecco, l'eredità in attesa di Expo, ci racconta in questo curioso articolo Alberto Matteoli, tutti disciplinati ad attendere il proprio turno. L'Unità fa una meritevole anche qui opera di non è una novità, e questo numero non è nuovo, però è giusto continuare a ricordarlo soprattutto all'inizio dell'anno. Il bilancio del 2015 sui morti nel Mediterraneo, morti tra le persone che cercavano di raggiungere appunto i paesi del Mediterraneo, che scappavano da guerre o fame o situazioni di gravissimo disagio, cimitero migranti, oltre 3.770 i morti. È stato un anno record, come dicevo, aprile è il mese peggiore con 1.250 vittime, e l'Organizzazione per la Migrazione Internazionale e l'UNICEF ci hanno ricordato che un migrante su 5 è un bambino. E queste due pagine dell'Unità ripercorrono questi dati con anche alcuni grafici, sono le pagine 8 e 9 dell'Unità. Se appunto alcuni di voi, magari tenendo le mani ben salde sul volante, vogliono tornare alla questione dei Volta Gabbana, che poi ha anche un risvolto economico, perché quando un parlamentare cambia partito o gruppo si porta dietro i suoi fondi, quindi lo trovate, come vi dicevo, alle pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano, con questo record del 2015, mai così tanti Volta Gabbana. E poi un bel ritratto di Carlos Slim, che è un messicano di origini libanesi, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha quote in aziende di tutti i tipi e partecipazioni in tutti i paesi, possiede anche una parte del New York Times. Roberto Zanini ci racconta la sua storia, l'incredibile storia di Carlos Slim, che è stato in un anno ha perso 20.000 miliardi di dollari, che è una percentuale piccola del suo patrimonio, però è una cifra che così di per sé fa molto effetto, senza fare una piega. Parlare di un ricco forse è persino nel suo caso riduttivo. Vi dicevo l'intervista di Bianca Berlinguer, se la volete leggere, a pagina 7 di Libero. Il titolo è "Vi spiego perché il TG3 non è amato dai partiti", e poi racconta anche, insomma, tutta la sua storia, dal rapporto con il padre Enrico Berlinguer a quello con Sandro Curzi, storico direttore del TG3 di Rai 3. Secondo Bianca Berlinguer, mandato via all'epoca perché aveva una forte identità. Un ritratto invece di Sala di Marco Giordano, sempre su Libero. Il piacione Sala le palle, tra virgolette, non le mostra, le spara. Il manager Expo vuole ingraziarsi tutti, elogia Pisapia, tende la mano al Movimento 5 Stelle, garantisce di essere di sinistra, ma idee proprio zero. Quindi un ritratto molto ironico, ma insomma anche molto critico di Sala e del suo atteggiamento, diciamo, pre-primarie, perché sapete che all'inizio di febbraio ci saranno appunto queste primarie per decidere chi è il candidato del centrosinistra a sindaco di Milano. Sul giornale un'interessante inchiesta sui rifiuti: noi li paghiamo, i nordici ci guadagnano. Pensate, l'Italia ogni anno sborsa 150 milioni per esportare i rifiuti in Austria e Olanda, dove li usano gratis per riscaldare case e uffici. Quindi quanto ancora si potrebbe fare appunto su una migliore gestione dei rifiuti. Torno sul secolo XIX perché anche qui mani sul volante, si fa un bilancio di come ha valutato la regione i suoi dirigenti. Solo promossi nel 2015, decine di migliaia di euro in premio ai dirigenti. Naturalmente basta cambiare l'obiettivo, no? È un po' come cambiare gli orari dei treni per far arrivare tutti i treni in orario, basta cambiare gli obiettivi e voilà, tutti li raggiungono e vengono di conseguenza premiati. Manica larga anche per i dipendenti della città metropolitana, ci spiega il secolo XIX. Ma vediamo anche articoli così un po' meno di cronaca. Sul Corriere della Sera Maurizio Donelli ci racconta come il 2016 potrebbe essere l'anno dell'auto intelligente, con sensori, pensate, connessi alle palpebre del conducente, un software che consiglia quando è ora di un caffè. Ecco come cambierà il nostro modo di guidare. E poi dalla Repubblica invece Renata Pisu, storica corrispondente e grandissima conoscitrice della Cina, ha scovato questo caso e ce lo racconta. Mistero a Hong Kong, scomparsi 5 librai che vendevano testi anticinesi. Lavoravano anche a una pubblicazione sull'ex amante del presidente Xi. L'opposizione protesta, rapiti per farli tacere. Un altro caso di censura, come spesso ne arrivano dalla Cina e che cerchiamo di ignorare forse, o che forse non approfondiamo abbastanza, perché la Cina ci fa ormai paura come potenza economica, quindi guai a criticarla, anche se di fatto per molti versi assomiglia ancora più a una dittatura che a una democrazia, o chiamiamola democratura se volete. E poi bellissimo questo articolo, questi due articoli, uno di Silvia Bencinelli con un commento del matematico Pier Giorgio Di Freddi sulla Repubblica, la battaglia delle tabelline. Servono ancora o recitare la memoria è anacronistico? Il dibattito va avanti da anni, ma adesso in Gran Bretagna il governo ha imposto agli alunni di 9 anni di impararle fino a quella del 12 addirittura, non del 10 ma del 12. Sono fondamentali come l'alfabeto, dicono gli esperti, magari usando alcuni stratagemmi per apprenderli facilmente. Da Macro, il supplemento del Messaggero, un gustoso excursus di tutti i libri un po' di spionaggio, dal codice Enigma a Tom Ficcanaso, la casa editrice dei servizi segreti italiani pubblica I colori dell'intelligence, un libro che racconta il mito di una professione con autoironia tra storia e cultura, naturalmente il mito della spia. E poi a proposito invece di tecnologia, sulla Stampa, un approfondimento che comincia tra l'altro di Beniamino Pagliaro, che comincia sulla prima pagina della Stampa, che ci racconta che lavoro fa, esattamente come lavora Tom Allison, che è l'ingegnere elettronico dietro il newsfeed di Facebook. Così decidiamo quello che leggerete, e in termini direi anche abbastanza comprensibili per chi ingegnere elettronico non è, Tom Allison ci spiega qual è l'algoritmo che seleziona che cosa appare su ogni profilo. Un'ultimissima segnalazione ancora dal Fatto per questo approfondimento su Charlie Hebdo, perché ricordiamo il 7 gennaio del 2015 ci fu il terribile attentato e massacro all'interno della redazione di Parigi del settimanale satirico. E poi ancora un altro tema che a volte tocchiamo, quello dell'eutanasia, su Libero un'intervista che sul radicale Marco Cappato, morire è sempre più difficile, l'eutanasia ci serve. Un altro tema su cui l'Italia non ha ancora una legge, quindi come sapete a volte malati terminali vanno a morire in Svizzera dove l'eutanasia è permessa. Ultimissima segnalazione, un'altra intervista molto bella al giornale a Ferruccio Ferragamo, uno dei cinque figli di Salvatore Ferragamo, il fondatore dell'azienda di scarpe che ora non fa più soltanto scarpe ma molto di più. Le scarpe svelano chi sei per davvero. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia e ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli.